Io riconobbi una pianta della stessa specie di quelle che il Stir aveva dipinte in mia presenza. Sono contenta che vi piacciano. Sono incantevoli. Guardate quel loro collarino di velluto mauve. Peccato che, come può capitare a persone molto belle e ben vestite, abbiano un brutto nome e mandino cattivo odore. Ciò nonostante, a me piacciono molto. La cosa più triste è che debbano morire. Ma sono sulla pianta, non sono fiori recisi, osservò la principessa. È vero, ammise la duchessa ridendo, ma il risultato è lo stesso perché sono signore. È una varietà di pianta in cui signore e signori non coabitano. Mi trovo nella situazione di chi possiede una cagna. Avrei bisogno di un marito per i miei fiori, altrimenti niente figli. Che stranezza! Ma allora in natura? Sì, ci sono certi insetti che si incaricano di combinare il matrimonio per procura, come fra sovrani, senza che fidanzato e fidanzata si siano mai visti. Vi assicuro che raccomando sempre al domestico di mettere il più possibile la pianta alla finestra, una volta dal lato del cortile, un'altra da quello del giardino, nella speranza che si faccia vivo l'indispensabile insetto. Ma ci vorrebbe una bella fortuna. Pensate, dovrebbe essere appena stato a far visita a una persona della stessa specie, ma dell'altro sesso, e avere la buona idea di venire a lasciare il suo biglietto qui da noi. Finora non si è visto nessuno. Suppongo che la mia pianta abbia serbato intatta la sua virtù. Confesso, però, che la preferirei un po' più scostumata. Ecco, è come quel bell'albero giù in cortile. Morirà senza figli perché è una specie molto rara nei nostri climi. Nel suo caso è il vento che si incarica di operare l'unione, ma il muro è un po' troppo alto. In effetti, osservò il signor di Brotè, avreste dovuto farlo abbassare di qualche centimetro. Sarebbe stato sufficiente. Sono interventi che bisogna saper praticare. Il profumo di vaniglia dell'eccellente gelato che ci avete appena fatto servire deriva, duchessa, da una pianta che porta questo nome. È una pianta che produce molti fiori sia maschili che femminili, ma una sorta di paratia rigida, situata fra gli uni e gli altri, impedisce qualsiasi comunicazione. Così non ne veniva mai nessun frutto finché un bel giorno un giovane negro nativo della Réunion, un certo Albius, nome fra parentesi abbastanza comico per un nero visto che significa bianco, ebbe l'idea di mettere in rapporto con l'aiuto di una piccola punta gli organi separati. «Babà, siete divino, sapete tutto!» esclamò la duchessa. «Ma anche voi, Oriane, mi avete insegnato cose che non immaginavo nemmeno lontanamente», disse la principessa. «Devo confessare a vostra altezza che è stato Swann a parlarmi sempre tanto di botanica. A volte, quando ci seccava troppo andare a un tè o una matinée, ce ne andavamo in campagna e lui mi mostrava degli straordinari matrimoni fra fiori, che sono molto più divertenti dei matrimoni tra persone e si celebrano del resto senza lance e senza sagrestia. Non c'era mai il tempo di arrivare lontano. Adesso che c'è l'automobile sarebbe stupendo. Purtroppo nel frattempo ha fatto lui stesso un matrimonio non meno stupefacente che complica un po' tutta la faccenda. Ah, signora, la vita è una cosa terribile. Si spreca il proprio tempo in incombenze noiosissime e quando, per caso, conosciamo qualcuno col quale si potrebbero vedere delle cose interessanti, ecco che va a sposarsi in quel modo. Costretta a scegliere fra la rinuncia alle passeggiate botaniche e l'obbligo di frequentare una persona disonorevole, ho optato per la prima delle due calamità. E poi, in fondo, non ci sarebbe bisogno di andare tanto lontano. A quanto pare, già nel mio pezzetto di giardino succedono in pieno giorno più cose sconvenienti che di notte nel Bois de Boulogne. Solo che uno non si accorge di nulla. Perché tra fiori ci si sbriga nel più semplice dei modi, Si vede una piccola pioggia arancione, oppure una mosca tutta impolverata che viene a pulirsi i piedi o a farsi una doccia prima di entrare in un fiore, e tutto è consumato. Anche il cassettone su cui è posata la pianta è splendido. Mi sembra che sia impero, disse la principessa, la quale, avendo scarsa familiarità con i lavori di Darwin e dei suoi seguaci, coglieva a malapena il senso delle battute della duchessa. «È bello, non è vero? Sono felice che Madame l'apprezzi», dichiarò la duchessa. «È un pezzo magnifico, vi dirò. Ho sempre adorato lo stile impero, anche quando non era di moda. Ricordo che a Guermantes mi ero attirata le ire di mia suocera facendo portare giù dal solaio tutti gli splendidi mobili impero che Bazin aveva ereditato dai Montesquieu e ne avevo arredato l'ala dove abitavo». Il signor di Guermantes sorrise. Eppure doveva ricordare che le cose erano andate in tutt'altro modo. Ma poiché le battute della principessa de Lhomme sul cattivo gusto della suocera erano state di prammatica durante il periodo in cui il principe era stato innamorato di sua moglie, al suo amore per lei era sopravvissuto un certo disprezzo per l'inferiorità intellettuale della madre, disprezzo che, d'altronde, si mescolava a una buona dose di attaccamento e rispetto. Gli Hénin hanno la stessa poltrona con delle incrostazioni di Wedgwood. «È bella, ma preferisco la mia», disse la duchessa con tono di rigorosa imparzialità, come se non avesse posseduto nessuno di quei due mobili. «Ammetto, del resto, che hanno cose meravigliose che io non ho». La principessa di Parma restò in silenzio. «Ma è vero, Vostra Altezza non conosce la loro collezione. Oh, dovrebbe assolutamente andarci una volta assieme a me. È una delle cose più sensazionali di Parigi, una specie di museo vivente». E poiché tale proposta costituiva una delle trovate più audacemente guermantes della duchessa, dato che la principessa considerava gli Hénin dei volgari usurpatori, il figlio di costoro portava come il suo il titolo di duca di Guastalla, Madame de Guermantes, mentre la lanciava, non si trattenne, l'amore per la propria originalità prevalendo persino sulla deferenza dovuta a Madame de Parme, dal gettare occhiate divertite e sorridenti agli altri invitati. Questi si sforzavano a loro volta di sorridere, al tempo stesso spaventati, ammirati e soprattutto felici al pensiero d'essere stati testimoni dell'ultima di Oriane che avrebbero potuto raccontare calda calda. Del resto, non erano stupiti che a metà, sapendo che la duchessa era un'artista nel passar sopra a tutti i pregiudizi courvoisier per costruirsi una vita più piccante e piacevole. Non aveva, forse, nel corso degli ultimi anni propiziato un incontro fra la principessa Mathilde e il duca d'Aumale, il quale aveva scritto al fratello della principessa la famosa lettera che comincia con «Nella mia famiglia tutti gli uomini sono coraggiosi e tutte le donne sono caste?» Ora, poiché i principi rimangono tali anche nei momenti in cui sembrano voler dimenticare che lo sono, il duca d'Aumale e la principessa Mathilde si erano talmente piaciuti in casa della duchessa di Guermantes che si erano poi scambiati delle visite, rivelando la stessa capacità di dimenticare il passato testimoniata da Luigi XVIII quando prese come ministro Fouché, che aveva votato la morte di suo fratello. Madame de Guermantes coltivava un altro progetto analogo: riavvicinare la principessa Murat e la regina di Napoli. Nel frattempo, la principessa di Parma sembrava tanto imbarazzata quanto lo sarebbero stati gli eredi della corona dei Paesi Bassi e del Belgio, rispettivamente principe d'Orange e duca di Brabant, se qualcuno avesse voluto presentargli il signor di Malinel, principe d'Orange, e il signor di Charlieu, duca di Brabant. Ma prontamente la duchessa, alla quale Swann e Charlieu Benché quest'ultimo fosse ben deciso a ignorare gli Yena, erano finalmente riusciti, con gran fatica, a far piacere l'ostile impero, esclamò: «Signora, sinceramente non so dirvi sino a che punto ne sarete entusiasta. Confesso che l'ostile impero mi ha sempre impressionata, ma là, dagli Yena, è davvero come un'allucinazione. Questa specie, come spiegarvelo, di riflusso della spedizione d'Egitto, e anche questo riaffiorare sino a noi dell'antichità. Ebbene, tutto ciò invade le nostre case. Le sfingi vengono a sdraiarsi ai piedi delle poltrone. I serpenti si attorcigliano attorno ai candelabri. Una musa enorme vi tende una piccola fiaccola per giocare a carte. Oppure si è arrampicata sul camino e se ne sta lì tranquilla, col gomito appoggiato alla pendola. E poi tutte quelle lampade pompeiane, quei lettini a barca che hanno l'aria di essere stati trovati sul Nilo e dai quali ci si aspetta di vedere uscire Mosè, quelle antiche quadrighe che galoppano sui tavolini da notte. Non si sta seduti molto comodi nei mobili impero, azzardò la principessa. No, convenne la duchessa. Però, insisté con un sorriso, mi piace stare scomoda su una di quelle sedie di mogano ricoperte di velluto granata o di seta verde. Adoro quella mancanza di comfort da guerrieri che capivano solo la sedia curule e incrociavano fasci e ammucchiavano lauri nel bel mezzo del salotto. Vi assicuro che, dagli Yena, non si pensa nemmeno per un istante al modo in cui si è seduti, vedendosi di fronte quel popò di vittoria affrescata sul muro. Mio marito mi giudicherà una pessima legittimista, ma che posso farci? Sono malpensante di natura e devo dirvi che in casa di quella gente si arriva al punto di amare tutte quelle enne, tutte quelle api. Mio Dio, considerato che da un bel po' di tempo in qua i re non ci hanno propriamente viziati dal lato gloria, quei guerrieri che portavano a casa tante corone da metterne persino sui braccioli delle poltrone, ebbene, mi sembra qualcosa di abbastanza chic. Vostra Altezza dovrebbe, veramente. Mio Dio, se ne siete convinta voi, disse la principessa, ma temo che non sarà facile. Vostra Altezza vedrà, non ci sarà nessun problema. Sono bravissime persone, tutt'altro che stupide. Ci abbiamo portato Madame de Chevreuse, aggiunse la duchessa, conoscendo la potenza dell'esempio, ed è rimasta incantata. Il figlio è anche molto gradevole. Quello che sto per dire è forse un po' sconveniente, continuò, ma una camera e soprattutto un letto dove si vorrebbe dormire senza di lui. Ancora più sconveniente il fatto che una volta sono stata a trovarlo mentre era malato e a letto. Accanto a lui, sul bordo del letto, era scolpita una lunga sirena sdraiata, incantevole, con la coda di madreperla e delle specie di fiori di loto in mano. Vi assicuro, concluse Madame de Guermantes, rallentando il suo eloquio per mettere ancora meglio in risalto le parole che sembrava modellare con l'atteggiarsi delle sue belle labbra, l'affusolarsi delle sue lunghe mani espressive e fissando intanto la principessa con uno sguardo dolce, penetrante e profondo, vi assicuro che con quelle foglie di palma e la corona d'oro lì accanto era commovente, ricordava in tutto e per tutto Le jeune homme et la mort di Gustave Moreau. Vostra Altezza ha certo presente quel capolavoro.